ci siamo, eh? 21 e 16 minuti. Ritorniamo in diretta voce sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in FM della banda romana e laziale. E iniziamo così, un po' incerti dopo il riposo estivo che non è mai abbastanza. E quindi benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Do It Yourself Invasion. Queste parti ci siamo scordati quelle due cose che credevamo di sapere. Eh sì, bastano due mesetti di pausa, ma forse un mesetto e poco più. Ricordiamo brevemente i contatti della radio, partendo dal sito raggiungibile al www.ondarossa.info, sito dove potete ascoltare la diretta streaming oltre le barriere dell'FM. Dove potete trovare tutte le notizie che vengono registrate nell'arco della giornata. insieme ai redazionali, alle corrispondenze, ai podcast delle trasmissioni. E quindi andando a cliccare su Palinsesto troverete i link per tutte le trasmissioni. Radio Onda Rossa da 39 anni libera nell'etere. Un progetto libero e totalmente autogestito ed autofinanziato che va avanti senza pubblicità, senza padrini, senza padroni. E soprattutto senza una lira, perché senza il vostro sostegno non ce la si fa. E quindi andando a cliccare su Sostieni sarete indirizzati ad una pagina dove potete trovare tutte le coordinate per poter sostenere questa radio. Mentre ascoltiamo questo EP dei Frontiera, e potete sottoscrivere a Radio Onda Rossa attraverso lo storico conto corrente postale il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00 185 Roma San Lollo. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info, nonché l'email della trasmissione fantasma@ondarossa.info, dove potete scriverci per sottoporci, insomma, farci conoscere le vostre autoproduzioni musicali, dove farci conoscere le vostre, informarci delle vostre iniziative. Non per ultimo il numero di telefono 06 49 1750. Quindi fatevi sentire se siete all'ascolto. Insomma, giustamente c'è chi si è fatto sentire dicendo: ma niente, non si ricomincia questa trasmissione? Perché insomma nella provincia qualcosa è in fermento, e ci sono venuti a trovare questa sera in diretta da Paliano. Ecco, ci siamo. Quindi una rappresentanza della 1%. Buonasera. Bella. Buonasera. Ciao. A voi. Allora, parla sempre molto vicino al microfono, che sono poco sensibili. Ah, quindi da Paliano, già in diverse occasioni ci siamo sentiti attraverso questi microfoni. E questa sera sono venuti a presentarci che cosa? Il Paliano Hardcore Fest, quinta edizione. Quinta edizione. Allora, è un numero importante. Beh, quinta, andiamo, sì, insomma. Impensabile anni fa, però. ci arriviamo, insomma. Ma e quindi, insomma, il 5 è un numero importante, un lustro. Sì. E vogliamo, insomma, raccontare a chi ci ascolta quando è nata questa, quando è nato questo festival. Allora, facendo qualche calcolo, 2016-5, sei anni fa. A questo punto, sì. Sei anni fa, perché abbiamo iniziato, poi ci siamo fermati un anno e poi abbiamo ricominciato e non ci siamo fermati. E speriamo di non fermarci, dai. Ma ricordiamo, insomma, come, cioè, proprio gli inizi del Palliano Hardcore Fest, da quale esigenza, da quale situazione, dove si è fatto, quali gruppi hanno suonato. Allora, la cosa figa è che praticamente si è fatto sempre lì sopra il piazzale del Parco dei Cappuccini di Pagliano. Tutto nacque, ecco, dall'esigenza semplicemente di suonare per i gruppi di Pagliano dell'epoca, che eravamo Social Trauma e i Giorni della Merla. Quindi abbiamo organizzato una seratina in cui eravamo semplicemente noi due. Inizialmente in realtà non si chiamava ancora Pagliano Hardcore Fest, era semplicemente Seratina Hardcore Suonamo. che poi era tipo di giugno, quando l'abbiamo fatto, o luglio addirittura. Sì, fine luglio. Giugno. Sì. E poi niente, è successo che l'anno successivo è venuto a mancare un nostro amico, nonché componente dei Social Trauma, e dalla volta successiva abbiamo continuato, appunto, a riproporre questo tipo di spettacolo. Di spettacolo, questa tipo di iniziativa. Iniziativa, sì, messa così, effettivamente. No, che poi insomma, no, è pure uno spettacolo, insomma. Dipende dai punti di vista, dai. Sì, che semplicemente guardando la gente paglianese in faccia mentre suoniamo questo genere di musica, diciamo, è quello, è un grande spettacolo. E niente, da quel momento si è chiamato Pagliano Hardcore Fest, quindi seconda, terza, quarta e quinta edizione con questa. E poi comunque, a parte il Pagliano Hardcore Fest, durante l'anno comunque abituate la popolazione paglianese. Sì. Insomma, alle sonorità. Sì, ultimamente abbiamo cominciato a capire più o meno come organizzare le seratine, quindi ho iniziative anche, per esempio, come Radio Onda Rossa, diciamo più o meno attive, ecco, questo sicuramente. E poi Pagliano, fortunatamente, c'è un punto abbastanza fervore per il punk e per l'hardcore, quindi ogni serata esce decisamente bene. C'è molto seguito, fortunatamente. Sì. Poi, insomma, Pagliano sta nel triangolo delle Bermuda, rispetto a paesi limitrofi dove comunque è seguito un po' l'hardcore, parliamo di Colleferro oppure Carpineto, insomma, quando si organizza un'iniziativa in uno di questi paesi, insomma, del limitrofi, ci si dà sempre una mano, ci sosteniamo a vicenda, sì, sempre presenti. Sicuramente con Pamela e l'associazione Terra Madre, che comunque anche loro sfornano concerti uno dopo l'altro. L'ultimo è stato sabato scorso, giusto? Sì, quest'estate avranno fatto 5 festival. Ognuno con un nome diverso, però tutti quanti organizzati dallo stesso nucleo. Che no, no, anche perché, insomma, l'atmosfera... proprio meteorologico, cioè il meteo di Montelanico va sfruttato d'estate, perché, insomma, sì. Altrimenti arriva il gelo. Anche quello di Carpineto. Di Carpineto, Da noi invece c'è star sole tutto l'anno. Di notte, del giorno. È il sud, insomma. Sì, vabbè, ma proprio geograficamente noi siamo su una collina, alla fine, cioè una collina che si affaccia sulla Valle del Sacco, mentre loro si trovano già sopra le montagne. C'ha i suoi lati positivi, ma pure quelli negativi. Allora, arriviamo all'edizione di quest'anno. Chi parteciperà? Allora, io dico, c'è il foglio là. Allora, quest'anno ci stanno i Mass Carnage, che vengono a Pagliano per la terza, quarta, quinta, sesta volta, boh. Ci stanno i Shred, sempre da Roma. Ci stanno i Buttero da Pagliano, i Malore dalla Tuscia. C'è tu nonna. Prego? Tu nonna proprio, sì. Ah. No, no, è, diciamo, no, era una sorpresa, lo volevamo dire all'ultimo, ah, che c'era tua nonna, però. No, bella, tua nonna non c'è sta. Poi c'è sta. No, no, specifichiamo che questa artista, insomma, riconosciuta nell'underground, anni ormai, cioè è affermata, insomma, sì. No, sì, risponde al nome, è vero, cioè tu nonna. Sì, in arte Silvia, in arte Six, che con me conosciate, spero che voi conosciate. Conosciatela. Milita nei Godog anche da diversi anni, e, oltre ad essere una fortissima illustratrice, disegnatrice, e niente, quindi ci propone questa suonata in versione unplugged, chitarra e voce, che merita veramente di canzoni neopopolari, come sì, chiamarle? Sì, beh, diciamo che si sbizzarrisce anche con delle cover non semplici, come per esempio Pagliaccio di Ghiaccio di Metal Carter, che comunque fatta da una voce femminile e in acustico, bisogna avere vabbè, ma dopo tutte queste chiacchiere vogliamo, sì, no, iniziamo con tu nonna. Io direi di sì. Ma anche perché il concerto inizierà con tu nonna, diciamo, lei aprirà un po' le danze nell'orario aperitivo, quindi verso le 7:30, così, quindi per questo dico, venite subito, sì, facciamo, ma che se la fa insieme. A caso, veniamo a mangiare, veniamo a sentire tu nonna, e poi quindi da che ora inizieranno i concerti? Dalle 7:30, diciamo, okay. Proprio abbastanza tassativi. E è prevista una cena oppure? Sì. Diciamo, noi ci appoggiamo sempre a un chioschetto che è all'interno del parco, che comunque ci sostiene in questo tipo di iniziative, e loro appunto prepareranno ogni tipo di delizia, dal carnivora, vegetariana, vegana, quindi senza problemi, oltre a fiumi di birra. Bene, allora, mentre quale pezzo volevate scegliere? Caccia di peroni, se c'è. Guarda un po' se te l'ho messa dentro. Ah, sì, ok. Allora, a caccia di peroni, questa è tu nonna su Radio Onda Rossa. Mi facevano presente che mi hanno purtroppo dato la traccia sbagliata, però ci riproviamo. Questa è tua nonna a caccia di peroni. Se devo uscire durate quasi come quell'estate. E ho fatto finta di far festa con la Fanta. Ad aspettare, non c'entra niente che sia freddo oppure estate. 1,20 euro il prezzo delle mie serate. E questa era Tu nonna. Tu nonna. Questa sì. Questa tu nonna. Questa prima no. Invece era progetto solista mio. Messo in mezzo, insomma, per autopromozione. Beh. Vabbè, dai. Allora, però, niente, ci siamo interrotti perché, insomma. Beh, arrivati a Tu nonna, giustamente. A Tu nonna, giustamente, ci siamo dovuti fermare, inchinare. E passarla, insomma. Però stavamo appunto descrivendo la scaletta del Palian Hardcore Fest. Che non è finita qui. Finita qua. Perché suoneranno ancora i Tear Me Down. Mica cazzi. Diciamo che per noi è abbastanza importante come traguardo, perché comunque sia far suonare i Tear Me Down a Paliano, sia per noi ma pure per quello che diciamo hanno significato per alcuni anche che non ci sono più, è molto molto importante. E infatti abbiamo fatto di tutto per riuscire a organizzare e cosa non facilissima, perché alcuni membri dei Tear Me Down addirittura vivono all'estero, quindi è stato, infatti ci siamo un po' avvantaggiati quest'anno già le seratine invernali al Ben Ci Venga, già a discuterne, a cercare di contattare chi più. No, siamo veramente contenti. Poi basta, poi ci stanno i Social Trauma. Li conosci tu? E poi stanno pure i Sepik. Ah, giusto, scusate, perché stavo leggendo la locandina e non ci sono i locandina, ma siccome c'è stato un gruppo dei Castelli che non ha potuto più suonare, quindi si è aggiunto quest'altro nuovo gruppo. Dico nuovo perché loro in realtà, diciamo, all'attivo hanno pochi concerti, anche se venivano da un gruppo precedente che si chiamavano Sanitarium. Loro sono di Ceccano e abbiamo suonato insieme a loro con i Buttero a Natagni e veramente meritano. Tecnicamente sono molto bravi, poi sono tutti giovani e ci fa piacere. Quindi dopo Tu nonna, quindi scaletto, poi ci saranno i Sepik. Ok, ma l'abbiamo detto, insomma, cioè no, io perché preferisco sempre ripeterlo, cioè sì. I Buttero ci sono? I Buttero ci saranno. Chi sono i Buttero? I Buttero sono un po' di gente, ecco, per esempio possiamo far sentire una voce in particolare molto butterosa in questo. Il butterista. Il butterista del Buttero. No, vabbè, ci abbiamo in un sol colpo questa sera due membri dei Social Trauma e Membri proprio. Sì. E due membri dei Buttero. Esatto. Ma io quasi però sono un po' di parte, passerei un pezzo dei Buttero. Vedi? Ecco. Vabbè, se Alberto non c'ha niente in contrario. Se no. Siamo tutti d'accordo, insomma. Sono tutto in contrario, però. Va bene, allora niente, qui lo vuoi presentare, insomma, uno split con Sì, questo è uno split che abbiamo fatto con i Vico. Diciamo che ancora non è completamente realizzato. Stiamo aspettando le tracce dei Vico. Comunque, diciamo, ormai è da un po' che l'abbiamo messo. Cioè, tipo una lo split in realtà non c'è, però è una promessa di split. È una promessa di split. Intanto esatto, ci sono i pezzi vostri, esatto. Oppure però il disco di Buttero si chiama Split con i Vico, cioè è proprio il titolo del disco, capito? Buttero titolo Split con i Vico. Esatto, è questo qui. Geniale. Perché me lo chiedi? Sembri malato. Sì, sono malato. Prendi le medicine? Non c'è medicina per la mia malattia. Cantare? La conosci la canzone Il mondo nelle sue mani? Sì, la conosco. L'intero mondo c'è la lui e l'universo intero. Non ti va di cantare? L'intero mondo c'è la lui l'universo intero. C'è la lui l'intero mondo. C'è la lui Insomma, qui dal disco dei Buttero intitolato Split con Ivico. Allora, beh, diciamo Ivico comunque sono tutti ragazzi della Tuscia con i quali comunque sono anni ormai che abbiamo un ottimo rapporto, collaboriamo anche in situazioni al di fuori della musica. E lo stesso gusto del degrado musicale, vabbè. Sì, sì, sì, beh. Tu c'eri quella volta al Baderetro, l'ultimo che abbiamo fatto a Paliano. Sì. C'erano i Vico, quando President si è spaccato la capoccia. Sì, per un po' di punti, abbiamo 4 punti. 4 punti in c'è, premio. C'è una tradizione ortopedica, quindi per i festival a Paliano, insomma. Beh, diciamo, più punti ti metti in testa, più birre bevi. No, però a parte insomma la questione medica post festival, l'asse insomma tra la provincia di Viterbo e la provincia sud di Roma c'è sempre stato negli anni, no? A voglia, con loro proprio c'è stato subito un feeling, un'amicizia che si è stretta subito. Ci stiamo noi quando ci stanno loro. E diciamo in ogni quasi, cioè diciamo che non è vabbè, insomma, ricominciamo. No, dicevo, è facile insomma sia nei festival intorno alla Tuscia, il Tuscia Hardcore Fest che c'è stato a fine luglio, sì. E anche in altre edizioni del Paliano Hardcore Fest c'è sempre stato in una delle due un gruppo, la contaminazione. Ci sono stati diretta. Assedio, ci sono stati no prove, ci stanno i malore stanno. Insomma, come ribadire, immagino, questa fratellanza tra le province, sì, hardcore. Sì, fino alla fine Tuscia Paliano. Come? Fino alla fine Tuscia Paliano, questo vabbè, sabato ce ne staranno. Decoria, voglia. Fino allo sfinimento. Bene, bene. E vogliamo ascoltare qualcos'altro dalla scaletta che abbiamo preparato? Sì, ci proviamo? Sì. Beh, diciamo che l'ora pure di sentire, che ne so, Shred. Belli Skate. Shred. Dai, presentiamo. Allora, no, Nervo, visto che sei partito così da entusiasmo, presenta gli Shred. Via foto. Chi sono gli Shred? Sono un gruppo d'amici molto sex nudi. Molto? Sex nudi. Niente. Sono amici da un po'. E sono veloci. Sono allora, metal. Chi suona negli Shred? C'è Claudio Scialabba, il tatuatore. E Manuel Cirolia, vabbè, oltre ad essere tatuatore ed illustratore, Claudio Scialabba suona la chitarra, sì, con i Nofu. Ma tra l'altro mi sa che ha fatto anche un gruppo nuovo ultimamente. È l'Arkin Terror, death metal. Mamma mia, come è preparato questo ragazzo. Logo disegnato Samuele. Bravi ragazzi, sì, veloci, sì. Nudi e bomba. E con c'è pure Gianluca la batteria? No. Valentino. E Guido al basso. Valentino cosa fa? Suona la batteria, suona. Però no, Valentino decede. Ah, ok, no, perché c'è una come dire, una promiscuità di componenti nell'hardcore che a volte siamo sempre stessi. Ecco quello. No. Sì, a giro, insomma. Quello è. Insomma, fanno metal. Beh, non proprio, sì, diciamo. Trash hardcore, skate rotelle che sì, corrono. Sì. Capelli lunghi. Capelli lunghi. Vabbè, io direi giudicate da voi chi è all'ascolto. Rock. Questi sono gli Shred da. No, il pezzo è Heavy Metal. Shred, infiliamo in mezzo gli Ombra in questa piccola città. No, un po' di folk a smorzare il trash metal ci sta, che no? Che di a me. Ah no, dici un po' questa no? Non si può? No, non mi pare il caso, dai. Vabbè, insomma, cioè, tranquillo, insomma, una che emorroidi. va bene, allora se non solo a pensarci se vengono le allora se ci sono dei problemi, insomma, fisici rilevare la tua anima folk, andiamo avanti, non maledetto, c'è problema. Detto, basta. Niente, quindi va bene. E suona okay. Flauto, quindi vabbè. Ok, va bene. Non devo cambiare disco, devo cambiare base. No, assolutamente. Cioè, ad ascoltarlo il folk non ti crea. Ma stai scherzando. C'ho il cuscinetto. Pomeriggio. No, invece c'avevo una domanda seria, no? Vai. Cioè, pseudo seria, quindi. Vabbè. No, mi chiedevo appunto. C'è il microfono aperto, quindi attenzione. No, mi chiedevo insomma com'è la reazione della popolazione di Paliano a questa invasione al centro di Paliano di decine e decine di punks che si agitano, che si lanciano. Ma in realtà pure i vecchi sono punk, quindi. Cioè, ormai Paliano è contaminata. Sì. So anche infatti del prete di Paliano che viene a vedere i vostri concerti. No, io sono testimone. Ma quello con i sandali che è passato l'altra sera al Bar Lazio quando sta. Ah, no, vabbè, capita là, quello che fa schifo. Buonasera a noi. Spero che abbia detto almeno sì, porta a zero, mille preghiere per quello che ha ascoltato. No, vabbè, diciamo che alla fine i punti in cui noi suoniamo questa musica sono o il Bar Lazio, che si trova veramente nel centro di Valiano, ma arroccato in una stradina e quindi di conseguenza diciamo non è tanto frequentato. Infatti scivavo noi lì, diciamo forse l'1% è nato un po' in quel bar a Son de Peroni. E poi appunto il Parco dei Cappuccini. Parco dei Cappuccini un po' periferico rispetto al centro di Paliano, quindi diciamo viene chi sa, viene che comunque chi si è interessato in qualche modo. Difficile che passa la vecchietta e dice ah ma i bravi ciriazzi. Però ci arriva la metro Cilla. Ci sta sì, la ferma- sì, c'è, c'è Paliano proprio. Sì, sta la fermata Arco dei Cornuti. E quindi è facile per venire. Sì, un attimo, un attimo. Vabbè, già che ci siamo con questa battuta, come raggiungere Paliano? Battuta. Non era una battuta, cioè, no, cioè, no, veramente cioè la... i lavori ci stanno, poi perché non è aperto. Ah, vabbè, raga, con la macchina da Roma Sud uscita Colleferro sono 15 minuti. Da Colleferro sono 10 minuti per venire su a Paliano, quindi mo a parte se abiti a Montemario, a Montemario prima porta ci metti un po', però dai, da Roma è un attimo. Ma sì, ma anche perché cioè poi lo diciamo sempre, alla fine noi da Paliano siamo, soprattutto i periodi invernali siamo sempre a Roma, cioè i viaggi ce li facciamo, cioè fatelo, quindi, fatelo anche, anche solo per questo cioè, oggi Infatti cioè mo che rimaniamo a dormire a casa di Dario è un conto, però vabbè, Roma o no, potete venire pure da, che ne so, Grottaferrata, da Fiuggi. No, no, a proposito, l'affluenza da, dai castelli da, durante ci sta, ci sta. Poi è normale, diciamo, più gente conosciamo e più sicuramente si allarga un po', no? Il numero di persone che viene, perché poi fondamentalmente cioè, la gente che c'è noi in un modo o nell'altro la conosciamo tutta, cioè, non è che uno fa un evento mainstream, capito? Cioè, è una realtà un po' diversa, alla fine è come se fosse una, cioè, una festa allargata. E vabbè, ricordiamo, cioè, dobbiamo arrivare anche ai tasti dolenti, purtroppo bisogna anche dirlo, come per fare una comunicazione chiara ed onesta, chi vuole venire a vedere il Paliano Hardcore Fest, quanto deve sganciare? Troppi soldi. Questa cosa non pensavo che ci avessi chiesto. Lo so, purtroppo. No, vabbè, c'è una sottoscrizione libera, però consigliata e gradita. Vabbè, 3 euro, dai, giusto per. Sì. Per no, la sottoscrizione è sempre libera, quindi, cioè, se state lì e venite saccocce vuote, vabbè, tranquillo, libera con coscienza, sì, insomma, dai. Considerando un po' comunque, cioè, chiamare i gruppi, dare rimborsi. Poi lo sai che è il problema, che organizzandola lì nel parco comunque dobbiamo un po' affrontare alcuni tipi di spese anche a livello di burocrazie varie, capito? No, cioè, non è tipo un centro sociale che dici vado, certo, lì, non mi occupo di niente, soltanto di organizzare la serata, cioè ci stanno un po' di sbattimenti da fare. E quindi ecco, se magari uno un contributo ce lo dà, noi lo accettiamo molto. Sì, insomma, ricordiamolo, è veramente tutto autocostruito, sì, ed autogestito ed autofinanziato dal palco a tutto. Infatti non c'è. Infatti non c'è. Infatti, non c'è. Quello l'ha fatto Alberto. Quello, no. Vabbè. Uscito bene. Vabbè. Uscito bene, bello, raga. No, c'è il palco dei Cappuccini proprio. Cioè, quindi, e ci stanno i Cappuccini. Va bene. Allora, vogliamo continuare con la scaletta? Yes. Andiamo di Max Carnage. Hai capito? Max Carnage o Max Carnage? Questo due parole chiesto, su Max. La carneficina sicuro. Tutti nudi. Vabbè, tutti nudi e tanti peli. Tanti peli, tante cicatrici, tanta pizza. Sì. E là si mangia la pizza buona poi. Peli. Vabbè, l'importante insomma per vedere i Max Carnage di lasciare qualche metro, no? Sì, di spazio. Di spazio. Sì, oppure vestirsi a cipolla, cioè comunque sì, è importante mantenere la possibilità di denudarsi, perché sono quei momenti, capito, un po' di apertura verso la natura, verso il mondo. Sono cioè durante un'interferenza, durante insomma il concerto dei Max Carnage, c'è un'esplorazione fisica, sì, tra, introspettiva tra chi suona e chi esatto. guarda il concerto. No, a parte gli scherzi, loro sono veramente da vedere, cioè sì, sono oltre da ascoltare, sì. da vedere, perché sono anche da annusare. Sì, sì, sì, a una certa distanza entra in gioco anche quello. Va bene, insomma, in questo momento possiamo stuzzicare solo uno dei sensi, sì. che è l'udito. Qui vi potete ascoltare i Max Carnage, però sabato a Paliano li potete anche vedere ed annusare, cosa che a no? modici prezzi. Bellissimo. Insomma, dei Max Carnage non abbiamo resistito, ci siamo dovuti fare una doppietta dello stesso pezzo. Vabbè, ci sta, no? Sì, sì, sì, per ripassare. Insomma, come stavamo anticipando, durante l'illustrazione appunto della scaletta del Paliano Hardcore Fest, siamo arrivati al gruppo della Tuscia. Che sono i Malore? Che sono i Malore? Visti a Roma, tra l'altro, abbastanza recentemente con i Social Trauma, che sono venuti a suonare proprio a sostegno di Radio Onda Rossa con gli Obophobic e gli Injury Broadcast in quella del Trullo. Vabbè, questo era insomma per ricordare avvenimenti recenti, e ci abbiamo pronto un pezzo dei Malore che è Quotidiana Morte. Vuoi aggiungere qualcosa di presentazione ai Malore? Boh, parere personale. A me piacciono molto, molto molto, perché c'è proprio lo stile molto ermetico e efficace. Che vuol dire medico? Hardcore punk vecchia scuola. No, a me school fatto a me la cosa un po' che secondo me, cioè non cioè, nulla da togliere insomma la scena della Tuscia, per carità, diciamo che come stile i Malore sono un po' più diversi e non sembrano neanche geograficamente della Tuscia, no? Mi dà un po' dell'hardcore Torino, anche milanese forse, non lo so, mi ricordano altri gruppi di Milano. Non so, anche come tematiche dei testi un po' più oscuri. Sì. Niente, insomma, risaltano insomma come stile rispetto a un hardcore più melodico che si può ascoltare nella Tuscia e dintorni. Sì, sì. Che ne pensate di questa? Totalmente d'accordo. Sì, sì. Ok, va bene, allora noi ce l'ascoltiamo dalla compilation Costruito nella Tuscia. Questa è Quotidiana Morte, loro sono i Malore. Magari da capo, perché i mix non sono voluti. Da capo, loro sono i Malore, questa era Onda Rossa 87.9 in FM. Rotelle di analogi, inchinate perfettamente, col tempo che corre frenetica senza il degno, ho tutto mente di cadaveri. Sorrido la morte, magari attendendo un messia, un duce che avrà impicchiato. Bambini che leggermente non affogano, ma nuotano consapevoli ciò che fanno. Si chiedono perché il papà non nuoti più, non nuoti più, non nuoti più. Già va sotto un pezzo da un estratto live dei Sepik. Allora, i Sepik, presentiamo i Sepik. Sì, ho detto prima sono... Però ci abbiamo scarsa memoria. Allora lo ripeterò. I Sepik diciamo, sono questi ragazzi di Ceccano, che è ex Sanitarium. L'abbiamo visti appunto dal vivo, perché loro non hanno quel pezzo che stai mandando adesso, è un live, è stato registrato quindi in presa diretta, non hanno ancora registrato come Sepik, però cioè, vi assicuro che dal vivo comunque sono belli intrippanti, ecco, quando sai, quando guardi il gruppo e rimani fissi, capito, cominci a guardare tutti quanti i componenti, dici porco due figo. Ecco, questa è la reazione standard. Va bene, allora. No, beh, magari, ecco, magari da un live non si capisce tanto bene, ma cioè, mi sembra giusto, appunto, li mandiamo comunque, non escluderli. Va bene, va bene. Allora, ce li riascoltiamo da capo. Questo appunto è un estratto live. Loro sono i Sepik. Yeah! Allora, questo è un assaggio dei Sevic Live, altro gruppo che potrete vedere al Paliano Hardcore Fest numero 5, festival che si svolge all'aperto. Insomma, siamo sempre in estate, il tempo dovrebbe essere abbastanza buono. Sì, sì, sì. Delle previsioni, insomma, che sta sì, buonissimo. Dentro però, non piove, non detto. Come? Dentro non piove. No, quello sicuro. No, specifichiamo questa cosa. Ci sono diverse opzioni. Allora, partiamo dal presupposto che in 5 edizioni ci ha detto bene, quindi noi non siamo così, cioè, pessimisti. Ci ha detto bene, quest'anno i siti comunque i siti detrattori dell'hardcore di Paliano. Esatto, ci stanno avvertendo che probabilmente un po' di pioggia ci sarà nel pomeriggio. Quindi noi diciamo alle strette suoneremo all'interno diciamo lo stabile che si trova lì nel parco, quindi problemi non ci saranno, la serata si farà comunque. Abbiamo già fatto due serate là dentro. Che freddi calcolatori che siete. Lo so, però quando c'hai in mano. Quando c'è la Madonna contro sempre. Quindi se piove. No, allora. Se piove fuori. Se piove fuori. Se non piove dentro. Allora. Se piove dentro, ci mettiamo fuori. Mentre siamo noi fuori. Cioè entriamo dentro. Se piove fuori. Se sono dentro. Se sono dentro. Fuori. Okay. Comunque, se vi piace l'acqua, venite bagnati. Se venite già bagnati, non pagate l'ingresso e suonate voi. Perché poi là c'è sta la piscina. E i 3 euro è compresa pure piscina. Cuffia. E cocktail. Bravo. Senza ombrellino perché comunque quella gente lo lascia in giro nel parco. Poi perché non piove, quindi c'è l'ombrellino che ce li fa. Esatto. Giustamente. Ok, ci sono altri premi, non so, qualche concorso. Li stiamo ancora decidendo. Diciamo possiamo rivelare tutto giovedì, dai, su. Certo. Comunque a fine concerto ci sarà comunque la raccolta di falangi. Esatto. Quella ogni anno, no? E quella la diamo in beneficenza ai Dirmi Down, proprio loro sapranno dove collocarle. E va bene. Ok. Allora, no, giusto che abbiamo nominato i Dirmi Down, direi insomma, con questa con l'augurio che tu hai. Vabbè, lasciamo perdere. E, allora, appunto, no, qualcosa de. No, dico, volevamo aggiungere qualcosa sui Dirmi Down. Vabbè. Veramente, quando sei così. Vabbè, che puoi di più? Non lo so, cioè lo saprà pure. Dirmi Down era uno di quei gruppi che da quando abbiamo deciso di portare avanti il Paliano Hardcore Fest, appunto, per Daniele. Era uno di quei gruppi che erano i suoi preferiti. I Dirmi Down, gli affluenti li abbiamo portati, i Dirmi Down li abbiamo portati, quindi Dirmi Down. Allora, prendo una posizione, loro sono i Dirmi Down, dai. Così ora volete sfidarmi? Dobbiamo ripagarti per aver rotto il braccio del nostro amico e nel prossimo incontro che sosterrai ti soffocheremo nella pozza del tuo stesso sangue. We'll be right back. ora volete sfidarmi? Dobbiamo ripagarti per aver rotto il braccio del nostro amico e nel prossimo incontro... Devo stroncare l'hardcore col folk. Va bene. Pensi che sei Corpiclani? No? Corpiclani di Aosta? Di Aosta? Sì. Vabbè, li presentiamo, questo è un... È un anteprima qui a Radio Onda Rossa. Notte, ho zanghere, pioggia, la sfor- Vabbè, breve parentesi folk, questi sono gli Ombra. Che cade anche sulle mie... E questa è la voce di Sergio Milani. Nessuno. Ex Kina, ex Frontiera. Che si è dato al folk. La strada dei e tra l'altro ci ha espresso la volontà di suonare in giro. E quindi è disponibile a venire a Roma. Chissà. Magari si farà un Paliano folk fest. No, pure perché il loro nome a Paliano significa è famosissimo. Molto. Cioè, Ombra a Paliano è una leggenda. Mo non la spieghiamo perché la conoscono in tutto il mondo. Ombra. Soprattutto alla sgurgola. Basta. Va bene. Basta. La gente prendi quando le scarpe bagnate. Vabbè, no, cioè. A me sicuramente mi ha messo la curiosità, sicuramente agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa la curiosità, insomma, se si può, Vabbè, Ombra è una leggenda del calcio palianese, Ombra. Cioè, a parte del calcio, ma proprio della filosofia pure. Di vita, sì. Cioè, voi tre fate una coppia. Perché lui ha fatto il mister, quindi diciamo dava delle indicazioni tipo corsa lenta ma veloce. Cioè, quindi Ombra era un mister della Paliano Calcio. Del Paliano, sì. Ma era un ex giocatore del Paliano anche. Ma ovviamente era fortissimo. Cioè, una leggenda cittadina di Paliano. Leggenda. Sì. Parola sì, giusta, leggenda. Leggenda, sì. Fece fermare un treno. Sì, sì. Con una rovesciata. Segnò un gol di rovesciata alla sgurgola e là c'è il campo dove passa la ferrovia dietro. E si è spostato il campo, cioè proprio. No, il treno si è fermato e l'hanno applaudito. Perché nel frattempo tutti hanno visto l'impresa. E non è una cazzata, eh. Questa è una cosa strana, perché è vero. Ok, no. No, giusto, insomma. La giusta cronaca. Delle gesta palianesi. Di Ombra. Grande. Collezione. Allora, noi però non ci fermiamo. Né ci fermano le leggende, né ci ferma il folk. Noi continuiamo con la scaletta. Sei sicuro? Mi sa. Sei un po' di parte, hai mai fatto l'occhietto? Dai, su. Lo so, però ho scelto la canzone che comunque sia, ci siamo tutti e tre qua. Hai capito. Quindi può andare tranquillamente, no? Allora, Social Trauma, Illusione e Repressione, da che disco? Da quale uscita discografica? L'ultimo disco che abbiamo fatto, che tecnicamente è il secondo, se consideriamo la demo iniziale. Se non consideriamo la demo. Se non consideriamo la demo iniziale, è il secondo. E niente, disco totalmente autoprodotto. Tra l'altro io ne vado fiero perché c'ho tipo la 3 di 5. Una cosa. Ma forse 13 di 5 c'hai tu. No. Una cosa. O ne avete fatti 10 o 5 veramente. Sì, no, 10 quella volta era 10. Sì. 3 di 10, no. Beh. Sì. Poi l'abbiamo ristampato un po', ma. Non si sento. Perché poi sai quando fai le cose da solo e poi ti escono male, no? E te ne accorgi, cioè, dopo. Voi fate un. Non è che fate 100 copie, ne fate. No. Un po' alla volta. Sì, perché artigianali. Le stampiamo noi. Quindi poi il tempo di prendere, di ritrovare il taglierino dentro casa, prendi il taglierino, taglia i cartoncini, fai la copertina, incolla, no, la copertina, cioè più di 10, capito? Sì, no, ma ribadiamolo questa cosa perché è importante, cioè do it yourself, poi i festival sono mega festival dove ci vanno i grupponi di qua, di là, di su, di giù, l'uscita discografica do it yourself, però insomma la copertina figa, la mega produzione, cioè no. Social Trauma, artigianali. Beh, cioè, do it yourself, sì, ma non per scelta, tipo famo gli certo, artigianali, certo, certo, capito? Gentrification, queste cose qua, capito? Più... Che cazzo devo dire? Oh, gentrification, ragazzi. Che c'entra, cioè, state roba. Vabbè, ma quelle cose tipo che metto, che ne so, le sedie di legno, faccio figo, che mi pare che è fatto male. E invece. Che finezze, eh? Vabbè, io, ma raga, ma state ma appresso, tanto, però, scusate. Quando sto ambriaco mi invento le parole qui. E quindi niente, cioè, per forza di cose a un certo punto abbiamo detto vabbè, che facciamo, quanto ci costa, tutto qua, ho detto vabbè, famolo, tanto chi se lo via, così lo facciamo noi, anche perché poi ai banchetti non ci stiamo durante i concerti. Lasciamo il banchetto là con tutti i dischi sopra. E chi vuole? E la cosa bella è torniamo e ci stanno tutti, manco se li cura. Gestito. Manco gratis, manco... Vabbè, ma giustamente, ma che cazzo, certo, che c'è, infatti. Sì. Sì. E quindi niente. Però insomma, Illusione e Repressione, con alla voce qui il maestro Nervo. Ospite il maestro Nervo, il batterista di Battero. Il butterista. Esatto. Il butterista di onoratissimo di cantare in questa canzone. Ah, perché l'altra volta ci hanno rinominato Battero, è stato figo. Forse una pronuncia anglofona, Battero. Sicuro mo facciamo un altro gruppo che si chiama Battero. The Battero Effect. Va bene, no, Illusione e Repressione. Cioè ogni tanto, no, a parte siamo sempre, facciamo i jukebox umani qua che no, parliamo del testo. Parliamo del testo. Il testo parla, che palle, parla dei testi. Che faccio il cantante che mi chiede il testo. No, vabbè, il testo parla della de come ci hanno abituato a essere illusi a una vita che sembra che ti dà tutto, invece ti dà solamente la repressione alla fine. Quindi illuso e represso. Valo. Quanto ci piacciono i loop? Belli, spettolari. No, niente, insomma, abbiamo coperto quello che è la scaletta del Palian Hardcore Fest e abbiamo scelto un altro pezzo in chiusura di questa scaletta che è 1%. No, parliamo appunto. No, che poi a volte capita. E ne abbiamo parlato anche rispetto ad altri gruppi, guardando insieme dei concerti, no? Quando ti trovi a sentire una canzone che diventa quasi un patrimonio collettivo di chi l'ascolta, di chi la conosce, e allora iniziano a partire i cori e diventa tutto più magico, no? E, la fortuna, la bellezza di questo pezzo che andremo a sentire è proprio questa qui. Insomma, è un piacere ascoltare questo pezzo, appunto perché è diventato, tra chi la conosce, un patrimonio condiviso, no? Certo. Cioè, questa comunque è una canzone per l'1%, però comunque quello che si dice nella canzone ricordiamolo. Rappresenta tutti. Ricordiamolo perché... Cosa? No. ricordiamolo perché, insomma, non tutti all'ascolto sanno che cos'è l'1%. Che cos'è l'1%? L'1% praticamente è questo insieme di persone di Valiano che da diversi anni a questa parte, diciamo, nutrono questa passione per la musica hardcore e tutto quello che ne consegue. Un comitivo, esatto, un vero comitivo, la comitivo di Valiano. E quindi niente, diciamo, a un certo punto, cioè, non è che c'è stata una necessità, però ci è venuto abbastanza spontaneo dare un nome un po' a quello che facevamo quando comunque presentavamo qualche serata, che sia il Vade Retro, il Ben Ci Venga, o seratine X organizzate anche in fretta e furia. E quindi il nome è 1%. Perché 1%? Diciamo che la storia, diciamo, com'era? È iniziato dalla recensione. Sì, ci hanno fatto una recensione su Punk for Free e uscì fuori tipo sta cosa di che tipo una piccola parte, tipo prendi una collina dispersa nel nulla, normalmente, e poi è proprio così, cioè. Che è così, quindi normalmente non c'è niente di rilevante, però c'è quell'1% di possibilità invece in cui esce qualcosa di buono. Questa era, cioè, la demo dei Social Trauma, comunque. Eppure, facendoci due conti, cioè, noi proprio al massimo della potenzialità siamo una settantina di persone, proprio al massimo del... Paliano sono 7.000 abitanti e 70 persone è l'1% dei Paliano, capito? Cioè, questa cosa non ci avevo mai pensato, un riscontro, ecco, proprio pensato mo. Grande. Cioè, siete l'1% di Paliano. Siamo l'1% sì, di Paliano. Effettivamente sì. E poi abbiamo questa passione per le Harley Davidson. No, vabbè, perché esiste un'altra crew, un altro comitivo di motociclisti, ma perché lui una volta l'hanno piato, gli hanno menato perché si credevano che era dell'1%. Sì, ma è una cosa totalmente lontana da noi. Noi abbiamo le bici, tra l'altro, ecco. Poi quello è un per center e invece ne è un per centro, proprio non c'è manco fa rima, cioè non c'entra niente, perché le cose per suoi devono fare rima, almeno rima. E volete aggiungere qualcosa che non c'entra niente, qualcos'altro che non c'entra niente, non so se volete contribuire. No, vabbè, dai, alla fine, ecco, questo l'1%, poi dopo di che abbiamo fatto questa canzone, ma più che altro è, cioè, la canzone è dedicata a Daniele, quindi, cioè, parla in maniera non esplicita, ma comunque sia parla di lui, quindi per noi farla al di fuori dal fatto che comunque poi è diventata un po' una canzone che è più conosciuta tra chi ci segue comunque in giro per concertini, per noi è proprio importante farla in generale, perché proprio è un momento più nostro, in cui, cioè, c'è questa eccezione. E niente, quindi, ecco, l'1% comunque negli anni, poi sì, siamo, diciamo, chi suona, poi magari di quelle 70 persone chi suona veramente sono magari una quindicina, perché se poi quindicina di persone, sì. Consideriamo gruppi come i Barracuda, i Capra, i Mortè, i Giorni della Merla, i Buttero, i Social Trauma, comunque più o meno, diciamo, siamo sempre noi, ma comunque cerchiamo di mantenere viva la scena palianese. c'è promiscuità, ci si moltiplica, insomma, nei ruoli. Certo. Sì. Ok, va bene, allora direi insomma di chiudere questa scaletta passando appunto 1% e loro sono in Social Trauma. minuti, tra pochissimo. Insomma, abbiamo iniziato un po' tardi rispetto all'orario consueto. E tardi ci siamo prolungati, visto ed approfittando dell'assenza di Apostasia. Che come loro tradizione inizieranno, credo, a settembre ben inoltrato e prossimo alla chiusura. Allora, puntata iniziale della nuova stagione di Do It Yourself Invasion, con ospiti, ospite una delegazione della 1%, crew attiva a Paliano, che ci è venuta questa sera a trovare a presentazione del Paliano Hardcore Fest volume 5. E quindi un ultimo invito a chi è all'ascolto, insomma, a venire sabato dalle ore 19. Anche prima, anche prima. Come? Anche prima, dico. Anche prima, certo. Sì, ma tanto siamo là comunque. Perché prima delle 19 c'è l'aperitivo. Sì, sì. Che fai? Al Campari qualcosa uno se lo prende, no? Certo, poi insomma, no, perché poi iniziano i volumi alti e non ci si conosce. Capito, perché? È quella la cosa. Che hai detto? Infatti. Come ti chiami? Che? Io faccio una mini delegazione personale, che bisogna fare più matinè, perché. Infatti. Almeno cioè, col sole ti guardi in faccia un attimo, ti riconosci. Più socialità. Sì, sì, sì. Basta hardcore notturni rumorosi. Capito. Folk. Va bene. Allora, insomma, no, ripetiamo brevemente la scaletta di chi suonerà. Vai, allora, sabato 10 settembre a Paliano, Viale San Francesco d'Assisi. Allora, quindi a Paliano, sabato 10 settembre, dalle 19 in poi ci saranno Tu Nonna, i Sepik, Malore, Social Trauma, Shred, Buttero, Mass Carnage e i Tear Me Down a Paliano. Cioè, signora, quindi vi aspettiamo a Paliano, dai. Bene. Allora, noi andiamo a chiudere così le trasmissioni in diretta per questa sera. L'appuntamento con Do It Yourself Invasion è per giovedì prossimo. E quindi dalle ore 21 alle ore 22 andremo a presentare una compilation. Una compilation benefit anticarceraria, Against Prison. Quindi una compilation con ben 38 bands. Quindi un ringraziamento a chi è rimasto all'ascolto. Ringraziamo la 1% Crew che ci è venuto a salutare. Grazie a te. Ciao, grazie. E il nostro saluto più caro va a tutti e tutti. tutti coloro che si ritrovano in condizioni di limitata libertà personale. E quindi un abbraccio a chi è all'ascolto. E oggi giovedì 8 settembre 2016 cade l'anniversario dell'8 settembre 1974. Quando Fabrizio Ceruto venne ucciso dalla polizia durante le giornate della battaglia di San Basilio. Quindi durante quelle giornate di rivolta, quando Fabrizio Ceruto fu tra i compagni e le compagne che scesero in strada a difesa della lotta per la casa, appunto. E noi ricordiamo il palinsesto di domani mattina, quindi dalle ore 8, con la lettura delle prime pagine, con la rassegna stampa, a seguire i redazionali della mattina. Dalle ore 13 il giornale radio. Sempre durante la mattina, non siamo sicuri ci sia la puntata di Rom a Roma, la trasmissione sui migranti, che a cadenza quindicinale, se non erro. Dalle ore 11:15 Roma si barrica, dalle ore 13 come abbiamo detto il giornale radio, dalle ore 14 niente da vendere, la trasmissione hip hop di Radio Onda Rossa, 15:30 silenzio assordante, dalle ore 17:30 Down in the Desert, la trasmissione di Stoner Rock e Psichedelia, 18:30 le ore di religione. E poi dopo il GR delle 7:30 chiuderanno, credo, in questo momento dell'anno, le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa per il venerdì. Prossimamente sono in preparazione altre trasmissioni che andranno a chiudere il venerdì sera. E noi chiudiamo così con un pezzo dedicato a Fabrizio Ceruto. Buonanotte a tutte e tutti. Dai. Soltanto 19 anni e per loro tu non eri nessuno. Soltanto 19 anni e per loro tu non eri che uno. Uno come tanti, un cameriere, un garzone d'officina, un operaio, un disoccupato, un emigrante. Eppure quella domenica 8 settembre a San Basilio hanno mandato più di 1000 uomini per ammazzarti. Più di 1000 uomini che credevano che bastasse spararti e sono stati invece loro ad avere paura di te. Perché quella domenica giù a San Basilio eravamo in tanti a non essere nessuno, in tanti a difenderci le case, a farci la storia con le nostre mani. Il proletariato sarà sempre per la rivoluzione, ma è stato Fabrizio Ceruso a 19 anni. Se credevate di ammazzarlo avete sbagliato, Fabrizio è l'uomo nuovo che non muore mai, Fabrizio vive in tutti noi nelle lotte del proletariato. Altri giovani del suo nome si preparano già la fossa. Il presidente a dirigere le operazioni per preparare il tuo assassinio. Lo Stato Maggiore riformista mobilitato a condannarti perché con gli estremisti non volevi sgombrare. Una montagna di calunnie per preparare e giustificare la tua condanna, la tua sicura morte. Tanto per ammazzare un proletario, un comunista di 19 anni, per far pesare la sua morte sulla lotta, giusta lotta. Sperandiare di truppe non è servito a niente, il sole rosso è rimasto nei tuoi occhi, la rabbia proletaria già l'ha detto, compagno Fabrizio noi dimenticheremo, assassini di Stato la pagherete, pagherete tutto. Ma tanto sferagliare di truppe non è servito a niente, il fiore rosso rimasto sul tuo petto, il pianto amaro di tuo padre, il rumore prodotto nella coscienza di tanti, anche l'odio prezioso quando il popolo prepara la riscossa.